Loredana Chiappini, Nuccia De Filippo. Un giorno in Italia 2. Corso di italiano per stranieri. Livello intermedio e avanzato. Bonacci Editore, Roma.